Per cogliere il clima dei tempi, come è noto, non è sempre necessario attingere ai commenti dei dotti o alle dichiarazioni dei ministri. Bastone avanzano le notizie della cronaca spicciola. E quale che sia il clima di questa incipiente seconda repubblica affamata com'è di democrazia, si dovrebbe poter ricavare non soltanto dai contorcimenti del ceto politico e dai trasformismi della classe dirigente, ma dal comportamento concreto dei soggetti sociali. Detto fatto, apriamo un giornale a caso, per esempio il Corriere di ieri, 26 aprile, e guardiamo cosa passa alla cronaca cittadina. Niente di nuovo, in apparenza, incertezze sul sindaco, la manifestazione del 25 esprime un messaggio di fiducia per uscire dalla crisi, che chissà cosa vuol dire, 4 ustionate in pizzeria, in un ristorante nei pressi del cimitero monumentale i carabinieri hanno probabilmente interrotto un summit di malviventi, e cosa diavolo vuol dire probabilmente, l'hanno interrotto o no? O hanno interrotto qualcosa d'altro? Poi precipita un ascensore, si spezza un cavo de vene, banalità. Però c'è un titolo più promettente. 5 colonne, riquadro e foto, i cani sciolti della darsena. Che cacchio saranno i cani sciolti della darsena? Sono, apprendiamo dall'occhiello, un gruppo di ribelli metropolitani, che ancora una volta sono nel mirino delle forze dell'ordine. E il sommario avverte che a Sinigaglia rispuntano i randagi, barboni anticonformisti con bastardini al seguito. Randagi e bastardini, tra virgolette. Blitz di polizia dopo continua denuncia, 25 ragazzi fermati in questura. Boh, la notizia in sé sembra banale, ma il pezzo è allettante, non fosse altro che per l'abbondanza di metafore canine. Leggiamolo. Noi vinciamo che esiste una tribù di giovani ribelli metropolitani che periodicamente si riaffaccia sulla scena milanese. E vabbè, tra loro si chiamano randagi. E del loro diritto. Si riuniscano sabato pomeriggio nelle vicinanze della darsena. Qualcuno porta la cresta punk, tutti hanno l'immancabile giubbotto di pelle nera e gli scarponcini militari, si muovono in piccoli gruppi di 5-6 persone e girano con tanti cani, randagi anche loro. Da dove vengano nessuno lo sa con precisione, finora non c'è nulla che possa dare fastidio a nessuno, direi. Si aggiunge che bevono e molto, birra nella maggior parte dei casi, e quando si ubriacano diventano pericolosi, zuffe, discussioni, violente, minacce. Boh, non succederà spesso, suppongo che si ubriachino con la birra, e vi assicuro come esperto bevitore non è facilissimo. Però succede, e gli abitanti della zona e più di tutti gli ambulanti della celebre fiera di Sinigaglia da tempo si lamentano, tanto è vero che sabato finalmente sono intervenuti gli agenti del commissariato a Genova e la squadra mobile. Allora, cosa è successo? Citazione. In piazza 24 maggio una 60 di randagi si era radunata nel pomeriggio. E così erano ubriachi, fradici, minacciosi, rissosi, non si dice. Si dice invece che i giovani sono stati in pratica circondati, i loro nomi comunicati alla centrale operativa e verificati. Al termine di questo primo controllo, in 25 sono stati portati in questura, mentre il resto del gruppo è andato disperso. Beh, dice il vettore, bel colpo. 25 turbatori dell'ordine pubblico, mica pochi. Che cosa gli sarà successo? Vediamo. 10 erano minorenni. Sono stati chiamati i genitori, ai quali, come prevede la legge, i ragazzi sono stati riconsegnati con un'immancabile predica. Uno è stato arrestato e l'ha ricercato perché non aveva rispettato gli obblighi del foglio di via. Ben gli sta. 8 hanno avuto il foglio di via obbligatorio, non si dice perché, e hanno fatto ritorno alla città d'origine. Infine a 2 randagi è toccata una diffida. Dovranno rimettersi in riga più presto. L'invito a rimettersi in riga non è propriamente previsto dal codice penale, ma non importa. Abbiamo 10 minorenni, facciamo qualche conto. Abbiamo 10 minorenni, un arrestato, 8 rimandati al luogo d'origine, che non credo sarà molto più lontano di Cinisello Balsamo. 2 diffidati, ne mancano 4. Cosa sarà successo a questi 4? Il Corriere non lo dice, gli altri giornali neanche, suppongo che saranno ancora in questura. O forse no. Perché forse li avranno lasciati andare come gli altri 20, perché stringi, a parte quel povero Cristo arrestato per mancata osservanza al foglio di via, che apprendiamo ha già la disgrazia di chiamarsi Pancrazio Epifani e ha 32 anni, per cui col mondo della protesta giovanile non deve avere moltissimo a che fare, A parte lui, si capisce che gli altri sono stati tutti rimandati a casa loro, chi con la predica, chi con la diffida, chi presumibilmente col buffetto sulla guancia, perché non avevano fatto assolutamente niente. Reati addebitati proprio nessuno, neanche il possesso di un temperino, la detenzione di un singolo grammo di droga o una solitaria lattina di birra, perché state sicuri che il comunicato stampa del commissariato, su cui probabilmente si basa l'articolo, ne avrebbe fatto menzione in grande? Probabilmente non avevano fatto nient'altro di male che essere lì. E al lettore resta di risolvere il problema di perché mai 59, togliamo il perfido infrattore di fogli di via, perché mai 59 giovani cittadini riuniti di sabato pomeriggio in un luogo di incontro giovanile tradizionale come la Fiera di Sinigaglia, i cui banchetti, per quanti proprietari possano lamentarsi, non a caso espongono soprattutto giubbotti di pelle e scarponcini militari, e siano circondati, identificati, dispersi, portati in questura, restituiti in famiglia, espulsi dalla città, diffidati, e magari nella procedura abbiano anche rimediato qualche sberla, che a volte succede, questo io non lo so, so per certo, perché me l'ha detto uno che c'era, che i cani sono stati presi a pedate, ma tanto loro erano solo dei bastardini. Dite che in tutto questo non c'era niente di nuovo, che sono cose che sono sempre successe e che succederanno sempre, appunto. Cambiano i regimi, crolla la partitocrazia, una repubblica succede un'altra, ma i deboli, gli sbandati, i randagi, i giovani o vecchi che siano, sono trattati sempre nello stesso modo. Che se per le loro riunioni periodiche non indossassero l'immancabile giubbotto di pelle, ma che so, qualche bel capo firmato, e invece che dai bastardini qualunque, che servono solo ai giornalisti servili per inventare delle banali metafore, degli sciocchi giochi di parole, e invece che dai bastardini qualunque si facessero accompagnare da labrador a pelo lungo, da cani pastori alsaziani, o meglio ancora da Doberman da combattimento perfettamente addestrati, state sicuro che nessuno avrebbe niente da ridire, neanche la polizia.